Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana, di nuovo con voi per questa settimana che obiettivamente si faceva i calcoli in questi giorni, tutti sorpresi che i mercati prendano una tale virata durante l'estate. In realtà negli ultimi 9 anni solo 2 volte l'estate non ha riservato sorprese dal punto di vista dei mercati e delle borse, e quest'estate appunto non farà eccezione. La borsa adesso perde il 5%, Parigi meno 4,80%, Francoforte meno 4,30%, Londra meno 3,80%, l'America meno 2,80% sul Dow Jones. L'euro, ed è questa una prima annotazione al di là del calo generalizzato dei mercati, l'euro e i rapporti di cambio in generale non sono così mossi. L'euro è a quota 1,15, è vero che era un livello che non vedeva da qualche mese, ma siamo sempre a quota 1,15. Questa mattina, come già ricordavano i nostri GR24, Shanghai ha chiuso con un tonfo dell'8,5%, Shenzhen, l'altra borsa importante in Cina, meno 7,80%, Tokyo aveva chiuso con un 4,60% di calo, Hong Kong il 5%, Taiwan il 5%, anche l'India era andata molto male. Questo perché, per far capire che è chiaro, come sta avvenendo da settimane, che l'effetto, che la propagazione, l'epicentro è asiatico. Oggi c'è stata una reazione secondo molti operatori anche eccessivamente emotiva. Le borse sono, soprattutto in Italia, in un regime ancora vagamente festivo, ma molto emotiva per quello che riguarda le vendite. Attenzione, tutto possiamo dire, i giornali giustamente, Sole 24 Ore, anche domani avrà ampie pagine su queste, stanno analizzando i vari aspetti del fenomeno. Però dire che oggi sia successo qualcosa di specifico, di particolare, tale da portare a crolli delle borse che erano arrivati al 7% per Milano, al 6,90% per Parigi, al 6,50% per Francoforte, beh, sarebbe una balla, nel senso che non è successo nulla. La delusione è per una banca centrale cinese che non ha fatto nuove mosse, un nuovo intervento. Facciamo notare modestamente che la banca centrale cinese molto si era mossa in quest'ultimo mese e mezzo, svalutando in primo luogo ripetutamente la valuta cinese. È verissimo che la Cina ha rallentato, lo stiamo anche qui modestamente ricordando in base ai dati che escono da almeno da metà giugno, ed è vero che venerdì scorso l'indice che in Cina va a misurare l'attività manifatturiera ha registrato il calo più brusco degli ultimi 6 anni a 47 punti, quindi i 50 punti sono lo spartiacque tra un'economia che cresce e un'economia che invece va in contrazione. È vero che la Cina non è più prevista in crescita del 7-8%, o no, o 10% come ci abituò negli anni passati, ma al massimo arriverà vicino al 7%. Detto ciò, tutte queste analisi sono state fatte anche la settimana scorsa, oggi di nuovo da questo punto di vista non c'è niente. Poi sappiamo che i mercati si muovono anche con l'effetto, diciamo, che in inglese si chiama stampede, di corsa dei cavalli, per cui parte il primo e tutti gli altri, e dietro si va a vendere. Il ragionamento di fondo è quello di un'economia, della prima economia quanto diciamo a crescita, che è quella cinese, che va a rallentare, diventerà o sarà meno l'acquirente di tantissimi prodotti e materie prime, soprattutto dei paesi emergenti, contribuendo al rallentamento anche dei paesi emergenti, che da sempre sono abituati ad avere nella Cina il canale di sbocco, pensiamo a tutto quello che vuol dire le materie prime, dal Cile all'Africa, alle derrate alimentari del Sud America, anche la stessa produzione di elettrodomestici della Turchia. Cioè la Cina è un grande, era diventata sempre più un grande mercato anche di consumo, non solo di esportazioni. È vero pure che le attese sono per una Federal Reserve che tra settembre, ottobre, novembre dovrebbe alzare i tassi di interesse. Il ragionamento è, da un lato la Cina, la faccio molto semplice, non sarà più l'acquirente di tutte le materie prime e anche di prodotti lavorati o semilavorati del resto del mondo, e rallentando l'economia dei paesi emergenti. Dall'altro, un aumento dei tassi di interesse americani farà venir meno o ridurrà quei flussi di capitale che, visto che il denaro costa poco in America, negli Stati Uniti rende anche poco, e quindi questa grande liquidità che le banche centrali, non solo la Federal Reserve, hanno generato per rispondere alla crisi del 2008, facciamo notare che sostanzialmente da quando è scoppiata la crisi, dal 2009, le banche centrali hanno immesso 7.300 miliardi di dollari come, tra l'altro, espansione monetaria. 7.300 miliardi di dollari vogliono dire quasi il 10% del PIL mondiale di un anno. E insomma, il ragionamento che si fa è: da un lato la Cina non sarà più l'acquirente o non comprerà così tanto dei paesi emergenti, dall'altro il tasso di interesse americano in rialzo ridurranno questi flussi di capitali che fino adesso sono andati soprattutto in quelle economie emergenti, garantendo la crescita. Il combinato disposto di queste due cose porta a dire che vi sarà una frenata nelle economie che maggiormente trainano quella mondiale. Detto questo, ripeto, sarò pure naif, ma non si giustifica, se non con una reazione emotiva, un calo come quello di oggi, anche perché la borsa cinese, è vero che ha preso un'altra scoppola oggi, ma rispetto a un anno fa è ancora in rialzo di quasi il 60%, cioè ha perso il 30% negli ultimi due mesi, da inizio giugno, quando è iniziata la contrazione, ma come valori di borsa è ancora di quasi un 60% superiore ai valori di un anno fa. Quindi dire che, insomma, la borsa cinese è crollata va bene, nel senso, dal punto di vista numerico. Ricordiamo anche che rispetto a semplicemente un anno fa c'era stata una bolla anche lì, possiamo dirlo, insomma, una borsa che cresce del 100% in meno di un anno è una borsa che rischia di andare in bolla. Il tema, e concludo finale, perché la puntata sarà quasi monografica, e anticipo che oggi Focus Economia, nonostante la programmazione di Radio 24 sia ancora estiva, terminerà alle 18.30 come la programmazione autunnale, proprio per dare maggior spazio a queste notizie. Dicevo, il tema di fondo è questa contrazione profonda, brusca dei mercati finanziari, sì, ripercuoterà anche sull'economia reale, oppure resterà, come in altri casi, lo scoppio di una bolla solo di carattere finanziario. Domani rimando al Sole 24 Ore, che dedicherà numerose pagine di approfondimento a tutti i vari aspetti che io in maniera molto sommaria ho elencato. Adesso le altre notizie in breve. C'è chi lega il mio rientro in conduzione al crollo delle borse. Fosse così sarebbe facile, potremmo anche investire ogni volta che non ci sono, uno va a comprare. No, in realtà faccio notare modestamente che anche la settimana scorsa non è che se la passassero benissimo i mercati finanziari. Invece rispondo a un ascoltatore che dice: ma lei sta minimizzando. No, guardi che non sto minimizzando, tant'è appunto che dedichiamo anche più spazio oggi all'interno del palinsesto al tema. Tutti siamo consapevoli della contrazione dell'economia cinese, che era in atto ed era prevista anche a giugno. Ho solo detto che se uno mi chiedesse: c'è un motivo specifico, drammatico, per cui oggi, dopo i cali della settimana scorsa, a metà seduta le borse europee sono arrivate a perdere il 7%, un motivo così specifico, immediato, di cronaca attuale, non c'è, al di là della delusione per un ulteriore mancato intervento della banca centrale cinese. La domanda vera è se questo avrà delle ripercussioni, la faremo a tutti i nostri ospiti, sull'economia reale. Attenzione, perché di bolle sui mercati finanziari ne abbiamo viste, anche con correzioni forti, l'ultima quella della New Economy nel 2001. Altra cosa è dire se poi invece non è una bolla ma è una vera e propria crisi finanziaria, come quella che è avvenuta nel 2008, con un crollo totale della fiducia anche nei confronti del mondo bancario, che ha portato a una recessione più pesante per quello che riguarda l'Europa dal dal dopoguerra. Questa, a mio avviso, è la domanda. Cioè, se si tratta di una correzione dei mercati, per quanto brusca, per quanto brutale, per quanto così che può spaventare, ma che resta poi all'interno del mondo finanziario, oppure se tutto questo avrà una ripercussione finale sull'economia reale. Nel frattempo c'è anche il petrolio, e ci mancherebbe, che segue, allora, anche lì ricordiamola tutta, il petrolio era già sceso sui $50 al barile per via del braccio di ferro tra i paesi dell'OPEC e gli Stati Uniti. I paesi dell'OPEC, come abbiamo spiegato molte volte, puntavano, abbassando il prezzo del petrolio, a rendere non più profittevoli le estrazioni di petrolio americano, il cosiddetto shale oil, che hanno un prezzo di estrazione abbastanza alto, e questo è il braccio di ferro, diciamo, OPEC-Stati Uniti, se vogliamo chiamarlo così. In questo si è innescata anche una previsione di una minor domanda da parte della Cina e dei paesi emergenti, e infatti anche oggi il petrolio è calato del 4% a $38.50 al barile, il livello più basso da 6 anni a questa parte. Vale anche per il Brent, il petrolio inglese del Mar del Nord, che è sceso sotto i $45 per la prima volta dal 2009. Oltre a questo però c'è anche l'ingresso dell'Iran, perché non si può dare una spiegazione unica semplicemente dicendo colpa o è causa della Cina. L'Iran, ci si attende l'aumento della produzione iraniana dopo l'accordo firmato dall'Iran, e questo pesa ulteriormente. Quindi, siccome il petrolio è la classica commodity in cui si fanno valutazioni a medio e lungo termine, i famosi futures, beh, tutto questo viene incamerato dal prezzo. Ancora, per quello che riguarda le altre notizie, si era diffusa anche la notizia che il New York Stock Exchange, la borsa statunitense, avrebbe sospeso gli scambi se l'indice americano Standard & Poor's 500 avesse superato il 7% di calo. Lo ha comunicato il New York Stock Exchange alle varie agenzie, così non è avvenuto per ora. Perde parecchio il Dow Jones, il 2,80% in questo momento. L'euro, dicevo, poco mosso le valute, anche se l'euro è tornato a livello di 1,15 dollari, adesso siamo a 1,16, non capitava da 3-4 mesi a questa parte, da fine febbraio per la precisione. Lo spread italiano, quindi quanto costa l'Italia indebitarsi rispetto a quanto non costi la Germania, è stabile a 135 punti. Questo, secondo molti operatori, anche perché nel frattempo in Europa continua a esserci il cosiddetto quantitative easing, quindi lo stampaggio, o meglio i prestiti che Mario Draghi ha garantito nell'ordine di 60 miliardi al mese. Faccio notare che tutte e altre analisi le faremo nel corso del programma, abbiate un attimo di pazienza. Per quello che riguarda le notizie che nulla c'entrano con quello che sta capitando sui mercati, e veniamo all'Italia, oggi il ministro Graziano Del Rio, in merito al rischio che la manovra economico-finanziaria per il 2016 possa sfondare i 30 miliardi, ha detto: attenzione, ma noi le stime sulla crescita del 2016, che potrebbe essere più deludente delle attese, non ci spaventa. Le stime non ci spaventano, nel senso che siamo sempre stati molto prudenti e, come avete visto, le abbiamo centrate, quindi credo che è stato fatto un ottimo lavoro di previsione e anche sempre molto prudente, quindi non siamo particolarmente preoccupati di questo. Sul piano della finanziaria, ovviamente lo illustrerà il Presidente del Consiglio, con cui abbiamo lavorato anche in questi giorni, con cui col Ministro dell'Economia e Presidente del Consiglio abbiamo lavorato, proprio perché come ha detto il Presidente del Consiglio già nel suo discorso a Milano, l'Italia ha bisogno di investire su due grandi pilastri: la riduzione fiscale da un lato e il potenziamento infrastrutturale, la ripresa dei lavori pubblici dall'altro. Quindi stiamo lavorando, l'entità della manovra gli verrà annunciata dal Presidente del Consiglio. Altre notizie che riguardano l'Italia: da un lato ufficializzati dall'Expo gli ingressi dell'ultima settimana, dal 17 al 23 agosto, c'è stato un picco, come già avevano notato anche molti osservatori, il 20 agosto con 153.000 per complessivi 856.000 ingressi nella settimana, il picco appunto il 20 agosto. Invece per quello che riguarda Alitalia, oggi il numero uno di Etihad, James Hogan, è intervenuto sull'operazione che ha portato Etihad a essere il primo azionista di Alitalia, dicendo: ero molto scettico all'inizio, avevo detto di no, avevo affrontato fasi difficili per troppi anni. E poi ha continuato, è intervenuto al meeting di Rimini. Invece è stato un ottimo investimento, all'inizio vedevo troppe difficoltà e interferenze politiche. E poi è tornato sul caso di Fiumicino, ha detto: ci sono 169 aeroporti in Europa in cui è facile operare, per noi questo è estremamente importante. E riferendosi appunto all'incendio di Fiumicino, ha aggiunto: se ci sono degli incidenti, se ci sono dei problemi, questo può avere degli impatti sulla fiducia che possiamo avere e anche sulla nostra voglia di investire. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Adesso iniziamo questa lunga pagina, ripeto, in maniera molto laica, se si può usare questo termine, cioè non ideologica. Alcuni che scrivono hanno evidentemente la verità rivelata, noi cerchiamo di capire che cosa stia succedendo, fermo restando che la reazione di oggi, di adesso e soprattutto a metà seduta è stata una reazione brusca, forte, non giustificata da nuovi dati di carattere macroeconomico o di carattere congiunturale o di carattere anche di politica economica relativamente all'Asia o e anche eventualmente agli Stati Uniti. Cinismo in regia hanno messo la base che usiamo per le crisi. Allora l'aggiornamento ve lo do: meno 5,46% adesso Milano, meno 5,45% Parigi, meno 4,60% Francoforte, meno 4,20% Londra. Saluto nostro ospite già altre volte, il segretario generale di Asium Forex, nonché esperta dei paesi emergenti, dottoressa Claudia Segre, buonasera. Buonasera, bentornato. Grazie anche al responsabile macro del Credit Research di Royal Bank of Scotland, Alberto Gallo, in collegamento con noi da Londra. Buonasera anche lei, dottor Gallo. Buonasera, ragazzi. Allora, dottoressa Segre, visto che con lei abbiamo raccontato le difficoltà, i timori, le contrazioni, già da giugno, adesso vado a memoria, metà maggio, giugno, che arrivavano dalla Cina e che non avevano una ripercussione immediata e così evidente sui mercati finanziari. La prima domanda è molto banale: ma che è successo oggi, dopo una settimana in cui, quella scorsa, in cui le borse già avevano corretto e anche in maniera abbastanza significativa? Ma erano andati in fili proprio da giugno, quando abbiamo iniziato a sentirci su questo problema, cioè quando praticamente il Morgan Stanley ha sbattuto la porta in faccia al listino cinese, quindi per non farlo entrare nell'indice. Seguentemente abbiamo avuto altri fatti, tra cui quello di un'altra porta sbattuta in faccia ai cinesi, cioè quella del Fondo Monetario Internazionale, e poi di seguito abbiamo avuto prima il crollo del mercato azionario, quindi le reazioni con svalutazione, nuovi pacchetti di stimoli monetari e nuovi interventi da parte del governo, che poi nell'ultima volta che ci siamo sentiti ci è parso evidentemente arrancare e rincorrere il mercato e non stargli davanti. Ed è proprio questa difficoltà che Carlo Cottarelli del Fondo Monetario ha identificato come perfettamente naturale nello spiegare questa correzione, che naturale non è, perché sappiamo che le decisioni prese dal governo non hanno trovato immediata efficacia, come quella relativa al ricorso ai fondi pensione. Quindi senz'altro abbiamo un problema di ritardo temporale del governo, perché la paura che quei 90 milioni di investitori a livello sociale pesino ancora di più l'economia cinese, che probabilmente non cresce al 6,8 ma neanche al 4%, probabilmente crescerà un 6%, crea dei problemi di reazione, di tempistiche al governo, che vengono pagate evidentemente dai mercati, come vediamo in questo momento. Mi scusi, se ho ben capito, lei dice il fatto che le iniziative prese dal governo cinese non abbiano avuto tutta questa efficacia, non abbiano rassicurato su quello che faranno i 90 milioni, questi 90 milioni di cinesi, che lo ripeto ogni volta perché il dato mi piace molto, sono un paio di milioni in più rispetto agli iscritti al Partito Comunista Cinese, cioè sono esatto. più gli azionisti in borsa in Cina ormai degli iscritti al Partito Comunista, che sono 88 milioni. Esatto. Questi 90 milioni, perdendo copiosamente, quello sì, in borsa, facciano come hanno sempre fatto, diciamo, i paesi che il capitalismo conoscono da almeno dal dopoguerra, e cioè vadano a contrarre i consumi perché un crollo di borsa erode i tuoi risparmi investiti e tu spendi meno, e questo, e la paura è che questo poi porti a una contrazione ancora più forte di tutta l'economia cinese. Il fatto di non aver visto delle reazioni in Cina oggi ha fatto prevalere il pessimismo, ho capito bene il suo ragionamento? Esattamente, praticamente il governo sta valutando purtroppo con grande attenzione, gradualità e ritardo, come reagire per evitare di innescare una spirale evidentemente dannosissima che sarebbe rincorrere con varie svalutazioni questa situazione di mercato che va a complicare quel passaggio del modello economico che stavano portando avanti sull'altro lato. Ecco, c'era qualcosa di strano, poi vengo anche a Gallo, perché oggi è vero che ha perso Hong Kong e ci sta, a Tokyo, va bene, ma anche l'indice Sensex, quello della borsa indiana, ha perso il 6%, il peggior risultato da 7 anni, bruciati 9 miliardi di euro in borsa in India. Ora, io capisco i legami tra i paesi emergenti, India e Cina e quant'altro, ma per come la stiamo raccontando, questo problema è un problema di frenata soprattutto cinese, che sicuramente coinvolge i paesi emergenti che forniscono alla Cina materie prime e che vivono di materie prime, ma mi sfugge un po' di più, e chiedo scusa per l'ignoranza, il legame con l'India. Ma guardi, lei prima ha descritto perfettamente come sono tante le variabili che si sono sommate tutte insieme per la prima volta dal dopoguerra e per la prima volta da quella crisi del 29 che proprio era stata innescata da una serie di svalutazioni valutarie. Il problema è che qui non abbiamo quella situazione che lei descriveva di mancanza di consenso o di avvitamento del sistema bancario che si è ristrutturato dopo Lehman, ma è chiaro che la lezione di Lehman ai cinesi non ha insegnato nulla, perché non hanno fatto niente per riparare un sistema di controllo dei capitali che fa acqua da tutte le parti, che ha permesso gli ingenti deflussi di capitali con la relativa erosione delle riserve valutarie. Quindi dice che lo spettro di Lehman, nel caso specifico sulla Cina, sta ancora aleggiando, anche qui se ho capito bene il suo ragionamento. Vorrei sentire anche Alberto Gallo su questo, perché poi arriveremo anche a cosa prevedete che farà la Banca Centrale Americana, che a noi interessa ancora di più, perché uno potrebbe anche dire, beh, dopo che Mario Draghi ha fatto indirettamente svalutare l'euro sul dollaro con il quantitative easing, e che l'economia dei paesi emergenti sta raffreddando, il lavoro che doveva fare la Fed di raffreddare l'economia americana l'hanno già fatto da un lato Mario Draghi e dall'altro la Cina, quindi magari la Banca Centrale Americana ritarderà l'aumento dei tassi di interesse. Però prima vorrei sentire da Gallo un'analisi di quello che è successo oggi, ripeto oggi perché è settimane che spieghiamo che c'è una contrazione, revisioni di prospettive della crescita cinese, i settori che potrebbero essere più coinvolti. Faccio solo notare insomma, che il Sole 24 Ore sta facendo approfondimenti da tutti i giorni su questo tema, ma oggi che è successo, Gallo? Secondo me il problema è più profondo, non si tratta soltanto della Cina, il mercato, gli investitori stanno ponendo, diciamo, sotto osservazione la capacità delle banche centrali di mantenere la calma nei mercati e di far ripartire l'economia. Quello che abbiamo visto dall'inizio della crisi del 2008 è principalmente in tutti i paesi, Giappone, America, Europa e Cina, uno stimolo monetario per far ripartire le varie economie. C'è stato poco stimolo fiscale, in Europa se ne parla da tempo, ma non si è visto nessun piano Juncker per l'investimento. Anche in America sì, c'è stato un deficit all'inizio della crisi, ma comunque questo deficit è rientrato. E quindi la domanda è questa: nella ripresa, diciamo, il quantitative easing sta funzionando veramente, e in caso contrario possono le banche centrali mantenere la calma nei mercati? Nel caso della Cina, quello che si è visto negli ultimi 10 anni è un'accumulazione di debito privato di aziende, di governi locali per investimenti non più produttivi, cioè impianti per l'acciaio, impianti di industria pesante, porti, che ora che rappresentano una capacità non più utilizzata. Questi asset sono adesso dovrebbero essere svalutati, e con questo anche il valore del debito dovrebbe essere riprezzato. Però questo non è mai successo, e invece la Banca Centrale ha abbassato i tassi di interesse e ha, diciamo, spinto la lattina in avanti, quindi come rimandato il problema. Quindi, se ho ben capito, lei dice, attenzione, perché da quando è scoppiata la crisi la Cina ha avuto una politica molto dirigista per mantenere la crescita, e cioè ha fatto quello che per esempio in Europa non si può fare, ha inondato l'economia di capitali, di investimenti pubblici, anche di carattere infrastrutturale e industriale, delle volte nemmeno così produttivi, nemmeno così sostenibili, ma sappiamo che quella è un'economia, diciamo, a metà tra l'economia socialista di mercato e l'economia capitalista, per cui c'è un dirigismo sconosciuto nel resto dei paesi, dei paesi occidentali, per cui ha pompato e ha tenuto, diciamo, alta l'economia con investimenti anche di carattere infrastrutturale non sempre produttivi. Adesso stanno arrivando alla resa dei conti? Sì, cioè questi investimenti c'erano anche prima della crisi, però ovviamente dopo la crisi sono diventati meno produttivi, perché la domanda mondiale per beni di consumo è diminuita, e quindi adesso c'è la resa dei conti in cui il mercato si chiede: questa abilità di comprare tempo da parte della banca centrale, cioè, è veramente infinita? La banca centrale cinese e le autorità cinesi sono intervenute molte volte nel mercato, hanno abbassato i tassi di interesse, hanno abbassato il tasso delle riserve bancarie che vengono depositate nella banca centrale, hanno comprato azioni varie volte nel mercato azionario, però questo, a un certo punto, questo mercato che era controllato è andato fuori controllo. Adesso gli investitori si chiedono se il quantitative easing a livello globale sia effettivamente una farsa. Questo diciamo, è un giusto dubbio, soprattutto per paesi che non hanno risolto i problemi fondamentali, cioè hanno ancora troppo debito e questi asset non produttivi che devono essere fondamentalmente alcuni smantellati. L'Europa sta facendo alcune riforme, quindi è un po' a metà strada. Invece gli Stati Uniti comunque mantengono dei fondamentali economici migliori, perché durante la crisi hanno ridotto il debito delle aziende e dei consumatori, che era in gran parte nei mercati obbligazionari, quindi hanno esportato le perdite sui mercati. Quindi per uscire dalla recessione di bilancio c'è troppo debito e ci sono asset che non hanno più valore. La cosa da fare è di ristrutturare il bilancio, non si possono soltanto abbassare i tassi di interesse e ritardare il problema. E siamo arrivati un po' al nodo di guardare, il nodo è arrivato al pettine effettivamente. Allora, io non vorrei chiaramente essere banale, però conducendo questo programma da qualche anno so che delle volte i mercati usano anche molti pretesti. Io ho capito benissimo il ragionamento che fa sia lei, dottor Gallo, che la dottoressa Segre, cioè attenzione che la risposta che è arrivata dalla Cina, pensando di sotterrare, la dico io, la polvere sotto il tappeto, semplicemente abbassando i tassi, svalutando lo yuan, è una risposta che pensa di poter dirigere quello che non è dirigibile, perché i mercati finanziari hanno tanti difetti ma non sono così dirigibili. Non vorrei però che ci fosse anche qualche pretesto, cioè quando io vedo che la borsa cinese è cresciuta del 100% fino a giugno, vediamo che anche tutti gli listini europei, per carità, sotto ancora i livelli, ma faccio notare che a casa nostra il FTSE MIB a novembre era ancora a 19.000 punti, a dicembre era a sostanzialmente 20.000 punti, oggi pur con tutta la correzione di queste ultime sedute ha chiuso a 20.400 punti, cioè ampiamente sopra. Non è che le borse avessero corso troppo, banalmente per modo di dire, cioè non giustificate da quelle che poi sono i fondamentali delle aziende lì quotate e le prospettive dell'economia, Segre? Ma diciamo che questo è vero fino a un certo punto, perché dei passi avanti sono stati fatti. Il problema è che si è inserito in questo tentativo di recuperare sui dati macroeconomici, quindi a supporto di queste performance delle borse, si è inserito una variabile politica e il silenzio assordante che c'è stato oggi da parte di banche centrali, membri di governo che solitamente tendono a sparlare sui mercati, creando problemi non da poco sul mercato, abbiamo sentito il silenzio totale in questi giorni, sia venerdì che stamattina, anche da parte della stessa BCE, come se tutto fosse traslato a giovedì, quando ci sarà la Jackson Hole e dovrebbe illuminarsi il cielo e arrivare la verità vera, probabilmente, ma secondo me no, dalla Fed. Ecco, questo poi è il grosso punto interrogativo. Quindi lei dice ancora che una volta, oltre ai valori di borsa, c'è anche la sensazione che, a fronte di un problema reale che abbiamo raccontato, e quindi contrazione cinese, c'è stato un silenzio che può nascondere un imbarazzo, un non sapere che pesci pigliare da parte di chi dovrebbe dare una risposta, quindi BCE, Federal Reserve e People's Bank of China. Lei è d'accordo, Gallo? Sì, è il punto aggiuntivo è che comunque la capacità delle banche centrali di combattere una crisi adesso è molto limitata, perché abbiamo già i tassi a zero, abbiamo già fatto 3 programmi di quantitative easing in America ed è stato molto difficile iniziare il QE in Europa. Quindi supponiamo che questo diventi una crisi sistemica. Cosa potrebbero fare le banche centrali per opporsi a una crisi sistemica? Se per esempio un'azienda che è in Cina o in Russia ha un problema e questo problema poi si propaga anche in Germania, cioè qual è la reazione? Fare un altro quantitative easing, aumentare il quantitative easing, rimanere a tasso zero per un periodo molto più lungo. Però abbiamo già visto che in realtà lo stimolo monetario ha dei limiti, anzi secondo molti economisti lo stimolo monetario nel lungo termine, anche io sono di questa opinione, nel lungo termine può avere degli effetti collaterali molto forti, perché incoraggia investimento in attività finanziarie, non nell'economia reale, cioè in altre parole si comprano BTP e non si compra, riempie di liquidità il mercato e rischia di pompare in maniera artificiale alcuni titoli, alcuni investimenti finanziari, ma non la gira necessariamente agli investimenti reali delle imprese. Vi chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché poi l'ultima domanda che ho per voi è quello che farà intanto o potrebbe fare la Federal Reserve a fronte di questo scenario, diciamo così, già di raffreddamento delle prospettive economiche da un lato e già di raffreddamento del potere dell'euro e quindi di rafforzamento del dollaro. Quindi è ovvio che il riferimento va, come ricordava l'autoressa Segre, a Jackson Hole, cioè al meeting annuale dei grandi banchieri, delle banche centrali mondiali, che si terrà giovedì dopo il meteo. Focus Economia. Minuti, adesso arriviamo alla lista, ahimè, così, bollettino da guerra dei titoli in borsa, però, dottoressa Segre e poi dottor Gallo, che cosa potrebbe arrivare dal vertice di giovedì, quanto mai, anche se previsto da tempo, tempestivo, vista la situazione, dai governatori delle banche centrali e soprattutto da Janet Yellen, la numero uno della Banca Centrale Americana? Può essere che ritardi l'aumento dei tassi di interesse, cioè la politica di rientro dopo gli aiuti dati all'economia americana per uscire dalla crisi del 2008? Allora, per quanto riguarda la probabilità di un rialzo dei tassi a settembre, questa è scesa dal 54 al 34% in un mese. Janet Yellen non ci sarà alla Jackson Hole, ci sarà il suo vice, parlerà ovviamente anche Draghi e gli altri rappresentanti delle banche centrali. Però a mio avviso ci sono due possibilità: o che facciano trasparire che rimandano a dicembre o addirittura al 2016, perché in questo momento, se non fanno niente, il mercato pensa che la situazione è drammatica. Se fanno qualcosa, creano dei grossissimi problemi, soprattutto all'economia americana, che in questo momento comunque sta tirando. Ma di fatto qualsiasi tipo di attività delle banche centrali che parleranno giovedì, non essendo stata corroborata da sforzi di governo sia europei che dei mercati emergenti fatte bene e decenti, sostanzialmente non hanno portato a quei risultati che col quantitative easing si potevano raggiungere. Quindi ribadisco che il problema della variabile politica e dell'inefficienza dei governi ha complicato ulteriormente questa situazione, più tutto quello che ci ha messo dentro lei, dalle sanzioni russe alla questione del petrolio. Nessuno di voi però vede una specie di minaccia così o di messaggio, non dico mafioso, ma quasi dei mercati, dei grandi fondi alla Fed per evitare che aumenti i tassi, perché nel passato anche questo si disse. Oggi obiettivamente la dimensione dei cali sembra eccessiva per essere semplicemente ricondotta a una minaccia. Comunque, dottor Gallo. Ma io, diciamo, i mercati tendono a testare le banche centrali prima di questi grandi meeting, incluso Jackson Hole, però sappiamo che la Yellen non andrà a Jackson Hole, ci sarà soltanto il vicepresidente Fischer e neanche Draghi in realtà andrà lì. Credo che ci siano dei membri del board della BCE, del consiglio direttivo, forse Peter Prato o il vicepresidente. Quindi le attese erano per un Jackson Hole meno importante del solito, sottotono, esatto. E poi ci sarà il meeting della Fed il 17 settembre. Il problema è che siccome la Fed ha fatto un forte messaggio negli ultimi mesi per un rialzo quest'anno, adesso fare marcia indietro immediatamente risulterebbe in una perdita di credibilità e quindi sicuramente aspetteranno fino al meeting di settembre per dare una comunicazione più forte, secondo me. Poi è molto probabile, come diceva la collega, che loro ritarderanno e alzeranno l'anno prossimo, anche perché un rialzo a dicembre non è mai stato fatto come primo rialzo e la liquidità del mercato è molto bassa, quindi si parla secondo me del 2016. Però per fermare questo movimento dei mercati ci vuole più che semplici parole dicendo che noi ci siamo e noi stiamo guardando quello che succede. Quindi, e cosa ci vuole? Ci vuole un'azione coordinata, un messaggio coordinato da parte di due o tre banche centrali, secondo me. E il mercato continuerà a testare questa credibilità, perché appunto lo vediamo in Europa, il quantitative easing da solo ha soltanto dato dato dello zucchero al mercato, ma l'economia ancora perde colpi, ancora l'investimento è giù del 17% dal 2007. Quindi il mercato alla fine vuole la soluzione è anche stimolo fiscale, è una misura fatta dai governi, non solo dalle banche centrali. Le banche centrali possono soltanto ritardare questi problemi che ci sono nell'economia, però alla fine gli investitori prima o poi vanno a riguardare i fondamentali, vanno a riguardare gli utili delle aziende, il debito delle aziende. Quindi diventa sempre più difficile mantenere l'illusione che basti stampare moneta, se la dico in maniera brutale, no, perché poi quanti visi in questo è. Però è un'illusione che negli Stati Uniti ha funzionato, Gallo. Mi permetto di dire che gli Stati Uniti sono usciti dalla crisi che avevano loro stessi in buona parte creato dal 2008 in poi, grazie proprio a una politica di forte espansione monetaria, quindi tassi bassissimi, stampaggio di moneta attraverso l'acquisto di titoli di Stato americani da parte della banca, cioè quella recita lì ha funzionato per gli Stati Uniti. Adesso improvvisamente cos'è? Il timore è che non si sappia più come tornare a un'economia normale, o che la Cina non sia in grado di applicare una ricetta in maniera così efficace come hanno fatto gli Stati Uniti? La Cina sicuramente non è in grado, perché il debito cinese rimane tutto nelle banche, tutto domestico, mentre invece quello che ha funzionato secondo me negli Stati Uniti è che il 60% del debito che è stato ristrutturato all'esterno molto più velocemente, tramite le obbligazioni, cioè con perdite sui mercati. Immagina per esempio in Italia ristrutturare un debito bancario, ci vogliono 10 anni, in Europa ci vogliono in media a partire dai 2-3 anni, quindi la struttura del sistema finanziario in Europa e anche in Cina, che è ancora più opaca, rende il processo di ristrutturazione del bilancio aggregato, cioè il bilancio di tutti i consumatori, di tutte le aziende, molto più lungo. Questo è il vero vantaggio dell'America, che loro hanno un sistema che può ripartire più velocemente, che è fatto per poter fallire. Io temo che ci sia anche, siccome questa reazione dei mercati di oggi, al di là di quella della settimana scorsa, ripeto, è palesemente anche una reazione emotiva, di pancia, non dico panico, ma ci siamo vicini. Temo che ci sia anche il dubbio, perché mai abbiamo dovuto chiederci come è in grado e come sarebbe stata in grado la Cina di affrontare una crisi, perché la Cina ci ha sempre abituata a crescite al 10%, all'11%, all'8%, al 7% quando andava male. Per cui adesso l'interrogativo è come si comporterà una banca centrale cinese, che però non è la tipica banca centrale di un paese democratico a economia di mercato, diciamocela tutta, che già si è mossa in maniera molto dirigista su, deprimendo lo yuan, in un'economia in cui 90 milioni di cinesi, non tutti ma molti, si erano indebitati per comprare titoli di Stato. Insomma, il dubbio forse anche perché non abbiamo mai visto prima la Cina dover affrontare una contrazione della sua economia e una bolla speculativa nella sua borsa, che, se mi permettete, però non era così difficile da individuare quando una borsa fa il 100% di rialzo in un anno a fronte di un'economia che continua a crescere come gli anni prima, anche un po' di meno, il rischio bolla dietro l'angolo. Comunque, grazie sia alla dottoressa Claudia Segre, segretario generale di Assium Forex, che al responsabile macro credit research di Royal Bank of Scotland, Alberto Gallo. Allora, vedo alcuni messaggi che dicono: ma gli ospiti sono confusi. No, guardate, sì, per carità, poi ognuno dà la valutazione che vuole dell'ospite e del conduttore, però è che non esiste una, come ho spiegato all'inizio del programma, una variabile, un titolo, una notizia forte, chiara, da dire è successo questo, le borse crollano. Tutto l'insieme dei meccanismi con cui questa, diciamo, sfiducia si è costruita sono articolati, sono diversi, nessuno ha una risposta, è verissimo, ma non ce li hanno neanche le banche centrali, visto il silenzio che veniva ricordato prima. Forse per questo che si ha la sensazione che le spiegazioni siano parziali, oppure che siano che tirino in ballo molteplici fattori, perché non c'è una spiegazione lineare, unica, chiara di quello che è successo, ripeto, soprattutto oggi, perché la settimana scorsa i cali c'erano stati, ma eravamo sempre nell'ordine delle correzioni significative, correzioni pesanti, ma sempre correzioni. Oggi si parla di tonfo, traffico. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Focus Economia. Adesso la borsa, si fa per dire, perché di questo abbiamo parlato fino adesso, i titoli, per essere originali potremmo citare chi oggi ha chiuso comunque in positivo, e quindi OVS che ha guadagnato il 3,60%, Notorious Pictures più 3%, la Lazio più 2,30%, è qui il motivo, si capisce facilmente, Fintel più 1,80%, Leone Film Group più 1,70%, Parmalat più 1,20%. In realtà andiamo con chi più ha perso. Non sono i titoli dell'S&P MIB, perché c'è Kering che perde il 10,80%, la Roma Calcio il 10%, però se si va a guardare i titoli a maggiore capitalizzazione, il bilancio è obiettivamente sconfortante, nel senso che a perdere meno di tutti sono World Duty Free meno 0,20, Ansaldo meno 0,40, Pirelli meno 0,70, Mediaset meno 2,50, Pop Milano meno 3,30%. Ancora Pop Milano tra le banche quella che perde di meno, meno 3,31%, Finmeccanica meno 3,90%, poi inizia la raffica di cali che comunque con un indice che ha perso il 6% sono sempre inferiori al calo dell'indice, Moncler meno 4% come Toz, CNH Industrial, Campari, A2A e Prismian, il 5% lo perdono Atlantia, Generali, ST Microelectronics, Mediolanum, Enel Green Power, Telecom Italia, UbiBanca, Exor, Terna, Snam, Banco Popolare, Unipolsai, Mediobanca. Poi il 6% lo perdono Enel, Popolare Emilia Romagna, Intesa San Paolo, Autogrill, Saipem, Unicredit, Azimut, Buzzi Unicem, Ferragamo, Jux. Infine il 7% lo cedono Luxottica, Monte dei Paschi, Fiat Chrysler, l'8% è il calo di Eni, il 9,60% che è il peggiore, il calo di Tenaris. Andrea Fontana, buonasera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera. È difficile trovare un distinguo, però obiettivamente tra un calo del 4 e un calo del 7 c'è una certa differenza. Allora, che cosa ha penalizzato di più oggi la borsa nei titoli dell'S&P MIB, fermo restando il calo complessivo del 6%? Sicuramente il fattore globale è sicuramente le vendite che oggi hanno colpito soprattutto il settore delle materie prime, il settore minerario in tutta Europa, anche perché non solo il petrolio ha toccato nuovi minimi da oltre 6 anni, ma anche altre materie prime come il rame, come l'alluminio, come il nickel hanno toccato i minimi da 6 anni e mezzo. Quindi il settore delle materie prime è stato molto sotto pressione. In Italia abbiamo pochi rappresentanti di questo settore, sono tutti petroliferi. Tenaris e Eni non a caso sono state le peggiori del FTSE MIB, anche Saipem ha perso oltre il 6%. Mm-hmm. Poi la performance di Fiat, che si allinea a un settore auto molto penalizzato, oggi magari un po' meno degli altri, comunque meno 4,6% l'indice europeo del settore auto, ma ricordiamoci che nelle scorse settimane è stato tra i più colpiti da questa incognita cinese, possiamo chiamarla così, della crescita cinese. Perché? Perché gli esportatori verso la Cina soffrono, soprattutto i costruttori di auto tedeschi, ma con l'apprezzamento dell'euro, e oggi abbiamo visto un bel balzo della moneta unica sul dollaro, si teme anche per le esportazioni verso altri settori, soprattutto dei costruttori europei, quindi anche Fiat può essere penalizzata, magari sempre meno degli altri europei. Il lusso ha perso un po' meno perché è già penalizzato nei giorni scorsi, ma comunque Ferragamo ha perso oltre il 6%, si è difeso qualche business un po' più domestico come Mediaset, per esempio, come qualche utility che ha perso meno dell'indice, a A per esempio, Enel si è allineata all'indice, forse perché le preoccupazioni non riguardano fino a questo momento l'Italia e quindi la crescita italiana, ma riguardano l'estero. Poi si sono difese le società sotto OPA, cioè World Duty Free, Ansaldo STS e Pirelli, cioè le società per le quali c'è un'offerta pubblica d'acquisto pendente, e le offerte probabilmente si concretizzeranno in autunno, e quindi si sono mantenute non lontane dal prezzo dell'OPA, pur correggendo. Vabbè, e tutto il resto appunto è cronaca, di cui continueremo a parlare più sul fronte dell'analisi che della cronaca pura dopo il GR24. Grazie intanto a Andrea Fontana. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, GR24. Dove nasce tutto il cibo del mondo? Da dove arriva il pomodoro? Chi sostiene la Terra? Le domande dei bambini, le risposte degli scienziati. Da cibo a evoluzione, da spreco a sostenibilità. Le grandi parole di Expo raccontate ai più piccoli. Telmo, sei sicuro? Riusciremo a spiegare anche parole tipo biodiversità? Certo Federico, è la diversità degli animali e delle piante, e ci sono un sacco di sorprese. Tu per esempio sapevi di essere parente della banana? No, però vabbè, se lo dice un filosofo della scienza mi sa che ci devo credere. Vi aspettiamo ogni domenica alle 9 con interviste, esperimenti, storie, filastrocche e tante curiosità. Con Telmo Pievani e Federico Taddia, Terra in Vista, l'Expo come non l'avete mai visto. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora continuiamo con questa puntata ovviamente monografica, anche se monografica come tema. Il tonfo pesantissimo delle borse oggi, poi hanno un po' ritracciato, ma insomma invece che perdere il 7% Milano ha perso il 6%, invece che perdere il 6,5% Parigi ha perso il 5,30% della serie, non si può dire. Non ci si può accontentare di questo risultato. Il Dow Jones in questo momento perde l'1,77%. Ricordo che si fosse permesso in collegamento che invece minor movimenti si sono visti sia sul fronte valutario, l'euro un po' recuperato ma è sempre a quota 1,15, che sul fronte dello spread, che è rimasto sostanzialmente stabile, la differenza tra quanto rende il nostro BTP a 10 anni e quanto rende quello tedesco a 135 punti. I tonfi pesantissimi sono stati anche legati ai titoli più esposti sul petrolio e sull'industria del petrolio, penso a Tenaris -9,61, o Eni meno 8%, perché nel frattempo, per via di prospettive di crescita meno intensa, o meglio più deludente, della Cina e di vari paesi emergenti, oggi il petrolio ha perso un altro 4% ed è scivolato, per quello che riguarda il WTI, a un livello che non vedeva da 6 anni a questa parte, $38.50 al barile. Il Brent anche in questo caso sotto i $45 per la prima volta dal 2009. Ma torniamo a cercare di capire, al di là di quello che abbiamo raccontato per intere settimane, una Cina che cresce meno del previsto, una borsa cinese che dopo essere cresciuta il 100% a inizio giugno ha iniziato a rallentare, e con la conseguenza che 90 milioni di risparmiatori cinesi che hanno comprato massicciamente in borsa, delle volte anche indebitandosi, la banca hanno visto erodere i loro investimenti, i loro risparmi. Faccio notare che è vero che questa mattina la Cina ha perso l'8,5%, Tokyo il 4,5%, Hong Kong il 5%, citavamo anche l'India con un calo del intorno al 7%, però la provocazione, se volete, è questa: non ci sono state nuove notizie oggi, non c'è stato un dato particolarmente brutto sull'economia cinese o un dato una dichiarazione particolarmente preoccupata di un banchiere centrale, anzi c'è chi lamenta l'assenza di dichiarazioni dei banchieri centrali. Ecco perché, per capire, diciamo, ed è vero che il mercato dice ma non ha fatto un ulteriore intervento la banca centrale cinese, ho capito, ma questo non giustifica da solo un meno 7%. Ringrazio quindi per averci aggiunto in collegamento, per capire che cosa ci sta sfuggendo e se veramente non abbiamo visto un elemento così importante tale da qualificare la giornata, l'editorialista del Sole 24 Ore, Fabrizio Galimberti. Buonasera Fabrizio. Buonasera a tutti. Dunque Fabrizio, tu, per chi non lo sapesse, sei un grande esperto di mercati, ma soprattutto delle dinamiche dei comuni denominatori che muovono le bolle finanziarie e anche lo scoppio di queste bolle. Hai scritto un libro bellissimo anni fa che io cito sempre, Economia e pazzia, sulla storia delle bolle finanziarie e della loro esplosione. Allora, a noi sembra che non basti dire che la Cina non è intervenuta sulla banca centrale, c'è un effetto un po' che gli inglesi chiamano di stampede, di corsa dei cavalli, parte uno a vendere, o l'effetto panico, o l'effetto fuga verso l'uscita di sicurezza del cinema, come dicono sempre nel mondo anglosassone, cioè qui ci sono vendite generalizzate. È veramente la banca centrale cinese l'elemento scatenante? Diciamo che l'elemento scatenante è il fatto che fino a un mese poco più fa la borsa cinese aveva guadagnato più del 100% sull'anno, quindi era chiaramente un aumento così concentrato del tempo, non poteva che portare a uno sgonfiamento, il palloncino della bolla è stato sgonfiato. Il problema è di vedere se questo sgonfiamento della bolla cinese, che come al solito in mercati molto integrati, ha avuto ripercussioni anche sulle altre borse. Non dimentichiamoci che fino a 2 mesi fa c'erano massimi storici sia delle borse sulla sponda americana che sulla sponda europea dell'Atlantico. E quindi c'è una specie di correzione generalizzata in giro. Il problema è capire se questa correzione generalizzata porterà anche a tracimare sull'economia reale. Io su questo punto sono ottimista. Cioè tu dici che questo scoppio di una bolla, parlavi della borsa cinese che ha guadagnato il 100% nell'ultimo anno, e faccio notare che ancora, nonostante i crolli ripetuti, è positiva rispetto a un anno fa la borsa cinese di quasi il 60%, quindi diciamo nessuno si augura nuovi crolli, ma ci sarebbe ancora margine. Però tu sei più ottimista sul fatto che questo scoppio di bolle finanziarie possa poi ripercuotersi sull'economia reale. Arriveremo tra un attimo a questo, però l'idea che tu ti sei fatto, non c'è mai nulla di così razionale quando scoppia una bolla, lo sappiamo, si parte a vendere come fino al giorno prima si continuava a comprare, però dei meccanismi scatenanti ci devono essere. Allora, la Cina che rallenta, l'abbiamo detto in tutti i modi, c'è anche chi dice attenzione, adesso il combinato disposto di una Cina che rallenta e quindi non sarà più il grande acquirente di tutte le materie prime mondiali dei paesi emergenti e quindi penso al rame cileno, alle derrate alimentari sudamericane, ai minerali del Sudafrica, alla Turchia, agli elettrodomestici. Insomma, la Cina è stata per questi anni il compratore in ultima istanza di tutto ciò che producevano i paesi emergenti, a partire dalle loro materie prime. E unito al fatto che la Banca Centrale Americana possa alzare i tassi di interesse, quindi ridurre la liquidità che era in questi anni andata soprattutto verso queste economie emergenti, perché appunto era facile a quel punto mettere i soldi che la Fed ti dava in Indonesia piuttosto che in India, piuttosto che in altre economie emergenti, il combinato disposto delle due cose ha creato la tempesta perfetta. Sei d'accordo? Ha creato una tempesta perfetta, diciamo, sulla parte finanziaria, nel senso che sulla parte finanziaria e valutaria, perché è chiaro che se c'è meno flusso di capitali c'è anche, viene anche meno un puntello alle valute, che in effetti in grande parte sono svalutate. Naturalmente tutto questo però, come dicevo prima, quanto influenza sull'economia reale? Ecco, la svalutazione di una moneta è positiva per l'economia reale del paese interessato, perché spinge le esportazioni. Naturalmente c'è anche un problema di fiducia, perché se la svalutazione è troppo concentrata nel tempo, allora si possono creare dei panici finanziari con ripercussioni sull'economia reale. Però io vedo che i grandi fondamentali che spingono alla crescita, cioè la disponibilità di manodopera, il grado di istruzione del capitale umano, la capacità produttiva dell'industria, il tasso di utilizzo di questa capacità e soprattutto quella che è la voglia di crescere dei paesi emergenti continuano a essere intatti. Non vedo degli squilibri fondamentali come ci potevano essere all'inizio di altri episodi di recessione. E vedo che per quanto riguarda la Cina, che in questo momento è nell'occhio del ciclone, il grado di libertà delle politiche economiche, sia per quanto riguarda la politica di bilancio che per quanto riguarda la politica monetaria, esistono ancora. Come tu dicevi prima, la People's Bank of China non ha fatto molto per sostenere la borsa, giustamente a mio parere. Però lo yuan, dopo aver subito quella mini svalutazione di un 4-5% è stabile, e quindi la banca lancia un segnale di stabilità per dire che loro appunto non sono interessati ad una guerra delle valute, come molti hanno incautamente descritto questo intervento della politica valutaria. Insomma, quindi tu dici rispetto a altre crisi finanziarie, perché va anche distinto tra lo scoppio di una bolla, voglio fare un esempio facile, insomma, quando i titoli in Europa della dot economy, della new economy esplosero per le valutazioni, quello non significava una crisi del ciclo economico, cioè una crisi specifica di carattere finanziario di persone che avevano speculato sulle debuttanti, sugli sbarchi in borsa, sulla new economy e quant'altro. Altra cosa è quando le borse iniziano ad andare a picco dal 2008 in poi, Fabrizio, in cui si segnala un'economia in cui l'eccesso di massa finanziaria è l'unico motivo che regge un po' di crescita economica, ma non tiene più, e quella è il segnale non di una bolla, ma di una crisi che parte come finanziaria e diventa economica. Se ho ben capito il tuo ragionamento, tu sei più dell'idea che ancora adesso siamo di fronte più allo scoppio di una bolla, quindi di un eccesso di corsa su alcuni titoli, su alcuni listini, ma non il segnale che c'è una difficoltà e uno stallo della parte economica del fronte più globale, ma solo di quello finanziario. Sì, hai ragione, nel senso che quando ci fu la crisi del 2007-2008 è vero che l'origine fu finanziaria, ed è anche vero che quell'origine finanziaria non evitò alla crisi di trasformarsi in una crisi dell'economia reale, però fu qualcosa di veramente unico nella storia economica, perché quella crisi finanziaria ingenerò una tale ondata di sfiducia in cui la gente correva agli sportelli per ritirare i soldi, perché nessuno sapeva se la propria banca avesse in calcio dei titoli tossici. Quindi fu qualcosa che veramente ferì la fiducia. mentre invece adesso non vedo una ferita così generalizzata, ci saranno un po' di perdite di borsa, però non c'è una fiducia generalizzata. Ultima domanda, Fabrizio Galimberti, tornando all'economia reale, perché poi vedo anche i messaggi degli ascoltatori, uno dice sì, ho capito, ma questo riguarda solo chi ha investito, molti titoli avevano corso, altri meno, uno può citarli, l'abbiamo fatto anche prima, però se va a vedere grafici storici di molti titoli, non di tutti, ci mancherebbe, si accorge che sono ancora su livelli superiori a, per esempio, quelli di luglio, per non parlare di livelli anche del gennaio, di dicembre dell'anno scorso. Adesso il peggior titolo, uno dei peggiori di oggi, Fiat Chrysler, per carità, ha perso tantissimo, ma faccio notare che è ben al di sopra del livello che aveva dicembre a novembre, quando quotava 9 euro, e oggi è continuato a oscillare appunto su cifre molto molto in calo, ma ben superiore a quelle di i 13 euro dell'apertura di stamattina, e anche gli 11,90 euro, 11,80 euro, sono ben superiori al livello di dicembre. Ma al di là di questo, venendo all'economia reale, tu ritieni che paradossalmente, visto che l'euro sul dollaro è già debole, e non per merito della Federal Reserve, ma perché Mario Draghi sta stampando liquidità e quindi l'euro si è indebolito, dall'altro lato tutta l'economia mondiale non si sta surriscaldando, o meglio il rischio surriscaldamento viene un po' meno con questo scoppio di bolle finanziarie. Domanda, ma la Banca Centrale Americana ha ancora un interesse nell'aumentare i tassi di interesse a ottobre e novembre? Perché sembra quasi che il lavoro gliel'abbiano già fatto da una parte Mario Draghi, indebolendo l'euro e rafforzando il dollaro, e dall'altra lo stiano facendo lo scoppio delle bolle sui vari mercati, raffreddando l'economia. Quindi i motivi per cui la Banca Centrale Americana doveva alzare i tassi di interesse, cioè raffreddare un po' la crescita economica americana e rinforzare un pochino il dollaro, mettere un po' un freno all'economia, tornare un po' su livelli più normali, potrebbero essere venuti meno? Sì, certo, molti si preoccupavano che il dollaro troppo forte avesse potuto indebolire le esportazioni americane, ma io direi che in generale il mercato ha fatto già il lavoro che doveva fare la Federal Reserve, perché adesso il dollaro si è fortemente indebolito, l'euro, come dicevi, è a 1,14 fino a 15. Abbiamo anche una situazione in cui questo crollo generalizzato delle borse smentisce quelle che erano le critiche che molti appuntavano alla politica monetaria troppo espansiva. Si diceva che questa continua creazione di moneta avrebbe portato a bolle indomabili nel settore delle attività finanziarie, e quindi bisognava ritornare indietro, ma tutto questo ha provato invece che le bolle si stanno sgonfiando fisiologicamente per conto loro, e quindi non c'è più bisogno che la Fed alzi i tassi in modo da correggere questi squilibri. Grazie anche a Fabrizio Galimberti, editorialista del Sole 24 Ore. Grazie a voi. 18:20 minuti, c'è il traffico, poi cerchiamo di ragionare anche in prospettiva. 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, moltissimi messaggi chiaramente, bisogna capire adesso che cosa succederà da giovedì con Jackson Hole, ma soprattutto anche, ripeto, a mio avviso, al di là dello sgonfiamento di una bolla sui mercati azionari, se le ripercussioni saranno reali sull'economia e non solo su chi ha investito. Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Immagino domani, già vedevo dall'impaginazione, tantissime pagine. 10 pagine dedicate a questa tempesta finanziaria che è partita dalla Cina, ma come abbiamo visto è finito l'isolamento cinese, è diventato un po' un contagio globale. Quindi saranno 10 pagine che puntano non solo a dare una spiegazione su che cosa sta accadendo in Cina in realtà, visto che tutti parliamo di Pechino, ma anche sul perché gli investitori globali hanno ritirato la posta dal tavolo. E questo è il tema, cioè gli ospiti che ti hanno preceduto hanno messo in evidenza due cose, vado in veloce sintesi. Uno, di cronaca, il silenzio delle banche centrali oggi e dell'autorità politica. Delle volte le banche centrali e i politici vengono accusati di parlare fin troppo. Oggi, va bene che siamo a fine agosto, però il silenzio assordante, con il rischio che qualcuno possa leggere questo silenzio in non sapete che pesci pigliare, traduco in maniera un ma po' volgare. Possiamo dire anche questo, che sicuramente non sapete che pesci pigliare, ma soprattutto vediamo un'altra cosa, che il nuovo ordine mondiale di cui abbiamo tanto parlato e su cui anche i mercati hanno costruito la loro fortuna non esiste. Esiste un ordine occidentale dove cerchiamo di coordinare politiche di sviluppo che di sviluppo economico o di sostegno ai mercati finanziari che riguardano chi? L'Europa, gli Stati Uniti, il Giappone e poi un'altra parte del mondo su cui tutti ci affidiamo perché l'economia cresca, che vive in una sorta di isolamento. Dico questo perché? Perché in altre crisi importanti dove c'è stata l'Asia di mezzo, in realtà era il Giappone, questo è il nostro passato. E che cosa vedevamo? Vedevamo, come giustamente dicevi tu, le banche centrali con gli interventi di sostegno delle valute. Compro lo yen, vendo il dollaro, compro l'euro, vendo il dollaro, vendo lo yen. Questo è quanto è avvenuto. In questo caso con uno, devo dire un po' l'errore del Fondo Monetario qualche giorno fa di rifiutare alla Cina lo status di valuta di riserva, quindi di accettare come valuta di riserva in seno al Fondo Monetario anche lo yuan, quindi l'isolamento che è rimasto, ma soprattutto un po' una deriva su cui nessuno in Occidente sembra grado di dire qualcosa di concreto. A questo proposito, e concludo, dico questo: ci siamo un po' illusi tutti quanti probabilmente che che sulla Cina è meglio non intervenire, non fare pressione, perché è meglio, virgolette, non innervosire i cinesi. In realtà forse sarebbe stato meglio innervosirli un po' di più prima, chiedendogli il conto di quelle riforme strutturali dell'economia e soprattutto della democrazia che loro avevano promesso e che in realtà non hanno mai o quantomeno non hanno proseguito ad attuare rispetto ad una fase iniziale. E questo è un grave errore, perché come abbiamo visto nel caso cinese non c'è soltanto un problema della borsa, c'è un problema di guida. Se l'Europa e gli Stati Uniti non assorbono le merci che partono dalla Cina, dove vanno a finire queste merci? Restano nei magazzini. Perché? Perché non c'è una domanda cinese, non c'è una borghesia cinese, non c'è una classe media. Curiosità finale è speculare come le due economie che devono trasformarsi, quelle socialiste, siano tutte e due insieme al guado, quella cinese da un lato e quella russa dall'altro, perché ci dimentichiamo che anche la crisi russa ultima è cominciata con due svalutazioni consecutive, certo, che non hanno portato da nessuna parte. E quindi l'accusa di un eccesso di dirigismo all'economia cinese, cioè se tu pensi di uscire da una bolla, di una borsa che ha fatto il 100% semplicemente svalutando la valuta, non coordinandoti con gli altri, non funziona così l'economia di mercato, funzionerà così l'economia socialista di mercato, ma non l'economia di mercato. Ma la globalizzazione ha delle regole, nessuno quando c'è globalizzazione può pensare di restarne fuori. Un'ultima domanda, in realtà c'è chi fa notare che in questo momento il combinato disposto di una Cina che crescendo meno comprerà meno materie prime dei paesi emergenti, quindi rallentando anche la crescita di questi paesi emergenti, e di una Federal Reserve che era in procinto era di aumentare i tassi di interesse e quindi ridurre anche il flusso di capitali che sempre verso questi paesi emergenti andava, questo combinato disposto rischia di essere pesante. Tu ritieni che a questo punto la Fed preferirà aspettare dicembre, gennaio? Ma guarda, io ritengo questo, che qui il problema si sta ponendo su una scala diversa, non è più quello che farà la Fed, perché quello che farà la Fed potrebbe avere forti ripercussioni su quello che succede in Europa. Io credo questo, adesso dice, credo che questa sia veramente la questione per un giro di voltare pagina in sede G20, far sedere le grandi superpotenze, le grandi economie intorno a un tavolo e decidere, visto che l'oro non è più il parametro di riferimento delle valute o delle economie, darci delle alternative, perché non è possibile muoversi la spicciolata quando le decisioni di un sistema vanno a impattare su quelle degli altri. E staremo a vedere che cosa capiterà anche domani su questo. Immagino che gli approfondimenti del Sole 24 Ore siano, oltre che sul fronte cinese, anche sul fronte valutario e anche sul fronte dei risparmi, fermo restando che quando tu hai queste tempeste è difficile e anche sbagliato muoversi nel giorno per giorno. Ma tu immagini che prima o poi qualche voce da qua a giovedì è il giorno di Jackson Hole, per questo lo cito, la sentiremo, o a sto punto lasceranno che si sfoghi, anche perché, ripeto, la borsa cinese è ancora un più 60% rispetto a un anno fa. E allora uno potrebbe dire che ci sta ancora 40% da fargli perdere, per cui io non credo proprio che Jackson Hole, che non significa nulla purtroppo perché non è altro che una riunione informale e quindi può diventare chiacchiera da bar fra governatori e grandi banchieri, possa produrre qualche cosa. Ripeto, qui ci sono delle sedi istituzionali che sono state create dal dopoguerra per fare da cassa di compensazione delle tensioni. Recuperiamo quelle e facciamole lavorare. Grazie anche Alessandro, grazie Platerotti, vice direttore del Sole 24 Ore, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani ci auguriamo di tornare al palinsesto estivo e quindi terminare alle 18, nel senso che ci auguriamo che i mercati e la cronaca economico-finanziaria siano più tranquille. Intanto, da Sebastiano Barisoni, come sempre, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.